Sometimes I get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never had before, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Buonasera a tutte e ben ritrovate. Quella che state per ascoltare sarà la 235esima trasmissione di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione che va in onda da più di 12 anni attraverso i liberi microfoni di Radio Onda Rossa. È una calamità, così le fedelissime la chiamano e così cominciamo a chiamarla anche noi, è una calamità appunto, sta all'interno del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87 e 900 MHz. Questa sera ascolterete le voci mia, cioè quella che state appena ascoltando, io sono Caterina, e quella di Lucilla, ma dietro le quinte c'è stata, fondamentale come sempre, anche la fattiva collaborazione di Manuela. Se volete contattarci potete farlo al telefono della radio, che ricordiamo essere lo 06 49 17 50 fino alla fine della nostra trasmissione, oppure potete inviarci un sms al nostro numero di cellulare, che è il 339 853 6270, anche questo rimarrà attivo fino alla fine della nostra trasmissione odierna. Stasera mandiamo in onda la registrazione di un'intervista che Lucilla e Manuela appunto hanno fatto a Gabriella Romano. Gabriella Romano, ricordiamo che è una regista che tra le altre cose ha partecipato con dei suoi film a diverse edizioni del Festival del Cinema Lesbico Immaginaria. E l'abbiamo intervistata proprio per parlarci del suo ultimo film. Dopo questa registrazione vi daremo alcune informazioni ancora più specifiche sull'organizzazione delle 5 giornate lesbiche che si terranno a Roma presso la Casa Internazionale delle Donne dal 2 al 6 giugno 2010. Quindi di quest'anno. Rimanete quindi con noi e intanto ascoltiamo insieme un po' di musica. Si tratta di un brano di Ellen McIlwain, io con le lingue ci litigo proprio, ed è un vero e proprio virtuosismo. Ascoltiamolo insieme. I'm a cruel and king sick of it, and I rule my dinner. Hey, yes, I'm on it. Don't you hang around my maid, honey, you see my for my say, hell, well, you know you got me crawling, Mr. Honey, honey, grass over your high, well, I'm just gonna keep on crawling. Now, you know you got me crawling, Mr. When the grass over your high, well, I'm just gonna keep on crawling, I bet, till the dead day. And I rule my dinner, hey, yes, I'm on it. Well, I'm a cruel and king, sick of it. And I rule my dinner, hey, yes, I'm on it. Don't you hang around my maid, honey, you see my for my, honey, you see my for my say, hell. La la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. When you see my for my, when you see my for myself, la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Allora, siamo con Gabriella Romano, che è una sceneggiatrice, una regista e una scrittrice appassionata di storia e di storia delle donne. E quindi le rivolgiamo subito la prima domanda: come nasce questa tua passione, Gabriella? La passione per il documentario o per, per la storia? O per la storia? Per la storia. Dunque, la storia mi ha sempre molto interessato. Diciamo che quello che mi interessa della storia è il racconto personale, cioè come le persone raccontano la loro vita e attraverso la loro vita raccontano una parte piccola però importante di episodi storici che hanno coinvolto uomini, donne, persone. E quindi così io mi dedico alla storia orale, alla raccolta di testimonianze orali dall'inizio del 90. Penso che sia importante non soltanto per la storia lesbica e omosessuale, sebbene anche principalmente per la storia lesbica e omosessuale, però in generale penso che sia importante raccogliere la testimonianza degli individui, anche perché la storia normalmente è quella che si legge, si ascolta, che si studia, principalmente è piuttosto incentrata sullo studio di battaglie, trattati, eccetera, eccetera, e non prende in conto, non tiene in conto dell'esperienza personale degli individui che poi la storia la fanno e che la vivono. Quindi dall'inizio degli anni 90 io ho cominciato con un video che ha raccolto la testimonianza di una serie di lesbiche nel settore sanitario, nella NHS inglese, sia pazienti che terapiste, dottoresse, infermiere, eccetera, sulla loro esperienza del servizio sanitario. E quello era stato un lavoro lunghissimo, molto complesso, raccogliere tutte queste testimonianze è stato piuttosto complicato e ne ho fatto un video che inizialmente doveva essere un video didattico rivolto agli studenti di medicina e agli studenti infermieri e via dicendo, e poi invece ha avuto una vita più grande perché poi è stato una specie di documento apprezzato anche a livello di festival gay e lesbici, conferenze mediche, conferenze di psichiatria, insomma ha toccato molti aspetti di tante cose che non avevano solo a che fare con lo studio della medicina pure semplice. E quello è stato il primo lavoro di storia orale. Poi ne ho fatti altri, mi sono concentrata più sul fascismo, anche in un certo senso il film che ho fatto su Nietta Bra e Flaffi Mazzuccato è un film che ha molto a che fare con la storia orale perché raccoglieva intanto le testimonianze di tutti coloro che le avevano conosciute e poi i diari di Nietta, e quindi quello rientra anche in questa raccolta di testimonianze, sebbene non orali ma scritte in questo caso, però la testimonianza della persona e della propria esistenza, come era il caso di Nietta. Allora Gabriella, salta un'altra domanda rispetto a quella che ti volevo fare, visto che hai parlato di Nietta appunto, ed è il tuo lavoro che si intitola Pazza d'Azzurro, che ha avuto la fortuna di vedere ad Immaginaria in un contesto molto accattivante e che nel video stesso mi ha molto emozionato. Com'è nata per te l'idea di raccontare la storia d'amore tra queste due donne in un periodo storico anche complesso, complicato, insomma, no? Sì, dunque, diciamo che il film, sentito La Pazza d'Azzurro in italiano, è un film di 15 anni fa, più o meno, e quindi così, io ero diversa, il periodo era diverso, e tante cose erano diverse. Comunque, l'idea è venuta perché io ero amica di questa persona, Nietta, e quindi così io c'era un mio coinvolgimento personale molto forte, sapevo che lei stava riordinando questi diari alla fine della sua vita perché era una persona piuttosto anziana, e quindi mi chiedevo così ero piuttosto curiosa anche di quello che lei stava facendo, che stava facendo con molta serietà. Poi Nietta è morta nel 95 e questo diario è un po' scomparso, come molti suoi oggetti, le fotografie, eccetera. Nietta viveva in un piccolo paese nella provincia di Torino, a Monferrato. Allora io sono tornata, in questo posto e ho recuperato da vicini di casa, amici e parenti vari, degli stralci di diario che ho ricomposto quasi completamente. Il diario copre gli anni dal 38 al 78. E poi anche fotografie, eccetera, eccetera, e anche testimonianze e ricordi di chi conosceva queste due donne. E quindi la sorpresa è stata che questo diario, mia patria era una storica dell'arte, e io pensavo che questo diario trattasse principalmente del suo lavoro, del suo amore per l'arte. Lei ha scritto molti libri, anche di antiquariato, di cose varie, anche ha viaggiato molto, quindi mi aspettavo una cosa molto incentrata su questo suo aspetto della vita. Invece il diario era quasi completamente dedicato all'amore per questa compagna, che io non ho conosciuto perché è morta all'inizio degli anni 70, e quindi così mi ha molto scioccato questo dichiararsi alla fine della vita e questo voler dedicare gli ultimi anni della vita a fare un coming out così pubblico, perché lei aveva già un editore, un'editrice interessata. C'era un mio coinvolgimento personale, un'amica, il diario mi è piaciuto moltissimo, l'ho sentito molto vicino a me, e poi erano anni in cui io così credevo nell'amore eterno, avevo 30 anni, tante cose diverse da oggi, e quindi c'è stato un mio incollamento della mia vita su questa esperienza straordinaria narrata in prima persona da Mietta. Quindi c'è stato una specie di processo di identificazione? Assolutamente, poi io lavoravo con la mia allora compagna che faceva le riprese, e con cui così c'era un progetto di vita insieme che invece si è interrotto. Nel film ci sono i miei mobili di casa usati per le scenografie, c'è stato un accavallarsi in queste due situazioni, e io penso che a distanza di molti anni, vedendo questo film, che si rivedrà anche alle giornate lesbiche in versione sottotitolata, io rivedo questo film e penso che è un film che ha moltissime pecche tecniche, perché l'abbiamo fatto con pochissimi soldi in una situazione veramente molto pionieristica, per usare un eufemismo, però penso che è un film che tutto sommato, stranamente, ancora adesso interessa, è un film che ha avuto un successo per me insperato, però ecco, quando lo rivedo ci vedo tutte queste pecche, però ci vedo anche oggettivamente una forza che era l'entusiasmo mio di quegli anni e di quella storia lì, di me che cominciava a fare questi film, eccetera, eccetera. E quindi secondo me quella forza in qualche modo forse si comunica, perché altrimenti è un film tecnicamente, se lo rifacessi oggi, a prescindere dal fatto che ho un'altra visione della vita e altre esperienze, altre cose, comunque lo rifacessi oggi, sicuramente quelle pecche tecniche non ci sarebbero più. Però c'era una cosa, poi quel film è stato anche un incontro personale molto importante con un'attrice che è Paola Dionisotti, che fa la parte della protagonista, cioè di un'età anziana, di un'età matura, e questo è stato un incontro per me molto fortunato e molto importante. Paola Dionisotti è un'attrice molto famosa che ha accettato sulla base del suo credere nel progetto, quindi ha letto i diari di Mietta, le sono piaciuti e praticamente l'ha fatto perché le è piaciuto il progetto, cioè non ha voluto soldi, io così abbiamo lavorato molto in sintonia, e questo ovviamente anche si sente, cioè chiaramente poi i film sono anche l'incontro di persone, qualche volta l'incontro di persone è più intenso, qualche volta l'incontro di persone è più tiepido. Con lei c'è stato proprio questa scintilla, quindi ha funzionato molto bene, lei è molto intensa, secondo me è molto brava. E poi c'era una, per fare un esempio, in questo film c'è tutto un rimando tra le fotografie delle due donne insieme e le attrici, ci sono le attrici, cioè Mietta e Flaffi da giovani, Mietta e Flaffi da anziane, e quindi questo rimando di immagine, di tratti somatici era abbastanza importante. Anche tra di loro, cioè tra Mietta giovane, tra Mietta anziana, tra Flaffi giovane e Flaffi anziana. E quella meno somigliante è proprio Paola Dionisotti, mentre con le altre secondo me c'è una somiglianza quasi incredibile. Con Paola Dionisotti invece la somiglianza non c'è, però poi alla fine, cioè oggettivamente guardando la foto, dice, beh, è molto diversa. Invece poi alla fine lei si è calata talmente nel personaggio, in questa storia, l'ha sentita talmente sua, che secondo me poi è quella che sembra più simile. Così, vabbè, io poi non ho l'occhio molto obiettivo su questo, però per me lei ha veramente incarnato molto Nieta, si è studiata i gesti, cioè c'è stato uno studio veramente molto approfondito e anche io ho imparato molto da lei, perché lavorare con un'attrice del genere è una grandissima esperienza proprio a livello di formazione, formativa. E io sono contenta che lo potremo rivedere durante le 5 giornate lesbiche a giugno, perché credo che sia un film, un lavoro che restituisce alle lesbiche in generale una grande ricchezza, perché è proprio ricco di emozioni e questo è l'elemento che per esempio per me è stato dirompente quando l'ho visto la prima volta, poi l'ho visto anche altre volte, però bene così, me lo rivedo ancora. Forse ancora volentieri. Era uno dei primi film, che questo io non lo sapevo quando l'ho fatto, né me lo sono chiesto, però in effetti guardandolo adesso, è uno dei primi film sulle lesbiche italiane, in cui delle lesbiche italiane parlano della loro storia, fatto da una lesbica italiana, e quindi E quindi è un inedito. Hai fatto una cosa storica ed è tanto meglio, perché credo che peraltro ci sia un intreccio all'interno di questo film tra la storia scritta, appunto i diari, e la storia orale. E a questo punto ti faccio, visto che tu lavori sulla memoria e sulla trasmissione della memoria, ti faccio due domande, diciamo, insieme, poi tu le organizzi, perché hai tanta esperienza in questo senso. Quindi tu ti collochi all'interno di una situazione, poi oggi storica, abbastanza complessa, complicata, difficile, dove però, e per le donne lo è sempre stato, no? La memoria e il poter collegarsi con la storia orale, che è tipica delle donne, e quindi con il restituire storicità alla capacità delle donne di raccontarsi, insomma, e quindi alla trasmissione orale. Quindi cos'è per te trasmettere la memoria e perché hai scelto di lavorare sul racconto orale? Allora, intanto così a livello generale io ho sempre pensato che sull'omosessualità maschile e femminile ci sia troppo poca documentazione in Italia, troppo poco interesse al passato, alla storia, e questo così io ho vissuto all'estero, cioè in Inghilterra per molti anni. E per esempio lì c'è un grandissimo interesse, una grandissima attenzione a tramandare, ci sono degli archivi che raccolgono il materiale fotografico, per esempio, così insomma, c'è più attenzione. Quindi mi sono concentrata su questo, sicuramente è un argomento molto affascinante, ci sono anche, così a prescindere da queste considerazioni più asciuttamente professionali di interesse intellettuale, c'è anche un mio forte interesse, così, una componente di carattere, perché io ho sempre molto amato la compagnia degli anziani, ho avuto due nonne straordinarie con le quali ho passato dei periodi molto importanti della mia vita, e che mi hanno raccontato moltissimo, e quindi c'è ovviamente una mia abitudine a ascoltare gli anziani, a ascoltare loro, i loro amici, e a raccogliere e rielaborare i loro racconti. Quindi così è una combinazione di tanti elementi come al solito. Sul fascismo c'era pochissimo quando io ho cominciato a guardare all'argomento, e sicuramente l'interesse è nato leggendo il diario di Nieta, perché Nieta e Flaffi hanno cominciato la loro storia sentimentale negli anni 30 a Milano. In pieno fascismo, quindi. In pieno fascismo, quindi mi aveva molto colpito il fatto, per esempio, che loro frequentavano tutta una serie di persone che sicuramente sapevano che stavano insieme, loro vivevano insieme, facevano una vita piuttosto di coppia, e quindi mi aveva molto sorpreso questo fatto che, per esempio, a Milano non si sapesse nulla della presenza degli omosessuali e delle lesbiche in epoca di regina. Quindi ho cominciato a raccogliere testimonianze in questo senso, anche perché c'è un forte elemento, oltre all'interesse, diciamo, intellettuale, storico e alla mia componente caratteriale, c'è anche una forte curiosità da parte mia, cioè sono sempre molto spinta a indagare cose che conosco poco e di cui si sa poco. E quindi così mi sono molto appassionata della ricerca di testimonianze del fascismo, ovviamente c'è un ovvio ritardo storico rispetto a questo. Certo. Io ho cominciato negli anni 90 e invece queste testimonianze a rigor di logica si sarebbe dovute raccoglierle negli anni 70, 80, quando queste persone erano comunque, intanto ce n'erano di più e questa generazione era ancora più vitale, eccetera. Quindi ho trovato tutta una serie di persone che mi hanno parlato di quegli anni e ne sono nati due progetti, uno sull'esperienza di alcune lesbiche o alcune donne che parlano di lesbismo durante il fascismo, che si titola L'altro ieri. Uno, un progetto molto più sfortunato che in realtà io considero sempre non terminato, sull'esperienza di alcuni gay durante il fascismo, che si intitola Ricordare, che però appunto è stato un po' rimasto lì. E poi niente, è una ricerca che può continuare ancora, anche se questi testimoni ormai di questa generazione sta un po' scomparendo. Io ho intervistato ultimamente questa transessuale che si chiama Lucy. Sì, per la quale tu hai scritto fra l'altro anche un libro. Te l'ho scritto un libro partendo dalla sua intervista, che si intitola Il mio nome è Lucy. E lei, per esempio, ha dei ricordi molto vivi del periodo del fascismo, poi ha disertato, è stata internata nel campo di concentramento di Dachau. Sto realizzando anche il documentario su di lei, siamo appena andati a Dachau a fare le ultime riprese e dovrei iniziare la post-produzione tra poco. Quindi, diciamo, ancora è possibile raccogliere delle testimonianze, però sicuramente questa è una generazione ormai molto anziana. Tentavo di intervistare questo femminiello napoletano novantenne che però ormai non rilascia più interviste, per esempio, cioè sicuramente sono riuscita a quantare la coda di questo fenomeno e sono contenta, ma purtroppo molte esperienze, molti ricordi sono persi. Mm-hmm. Sì, io credo che il tuo lavoro potrà continuare sulla storia orale delle donne in generale, delle donne lesbiche, perché al di là dei periodi storici, perché è proprio una forma, le donne scrivono meno, lasciano documenti di loro stesse in maniera minore e poi c'è proprio un sistema, no? Un sistema eteropatriarcale, eteroorientato, che non permette alle donne, no, di fare granché in questo senso, quindi poi spetterà a noi, a te che hai le capacità e gli strumenti, e a proposito di questo ti chiedo, prima di andare poi alla fase dell'intervista centrale della nostra intervista, che è rispetto al tuo ultimo lavoro, però ti chiedo, ma dove ti sei formata? Allora, io mi sono formata in un primo periodo abbastanza da autodidatta, poi però perché lavoravo in radio facendo la giornalista, insomma c'era tutto questo mio lavoro abbastanza orientato sul lavoro giornalistico. Per quanto riguarda il documentario invece io poi mi sono trasferita in Inghilterra nell'87, ho fatto 2 anni di lavoro televisivo, e però anche piuttosto giornalistico, piuttosto di servizi giornalistici. Poi nel 90 ho fatto un master di regia in un college che si chiama Goldsmiths a Londra e ho studiato con un documentarista ora morto, molto famoso, che si chiamava Philip Whitehead, che si è specializzato, è famoso per i suoi documentari storici, e quindi così ho studiato con lui. Lui è un personaggio sicuramente di grandissimo rilievo e addirittura è diventato parlamentare in base ai suoi meriti da regista. Quindi così, questa grande fortuna, e poi da lì ho realizzato dei documentari per conto mio, sempre però lavorando per la televisione in ambito di produzione e ricerche per i programmi, e invece poi ho realizzato i miei documentari per me, sempre indipendentemente. Da finanziamenti, non per scelta. Ecco, lo immagino. Mi dispiace quasi interrompere questa registrazione, ma forse anche per chi ascolta è gradito fare un piccolo stacco musicale. Allora io mando questo brano che si intitola Things di Alain Morissette. Buon ascolto. Bene, dopo aver ascoltato questo brano musicale, riprendiamo con l'intervista registrata a Gabriella Romano da parte di Lucilla con la tecnica Manuela. Senti, allora noi il motivo di questa intervista è il tuo ultimo lavoro, abbiamo letto qualcosa su questo tuo ultimo lavoro e ci ha incuriosito, anzi ci ha entusiasmato. Intanto, chi è Violet? E parafrasando il titolo del tuo lavoro, svelaci questo enigma. Allora, il documentario parla di Violet Gibson, che è la donna che ha tentato di uccidere Mussolini nel 26, una donna irlandese di 49 anni, che lo ha ferito, non è riuscita a uccidere il dittatore, lo ha ferito in faccia perché Mussolini si è spostato, però è stato l'attentato più pericoloso, diciamo, quello che è arrivato più vicino a uccidere il Duce. Hanno tentato di uccidere Mussolini 4 volte in modo serio, ma ci sono stati molti altri complotti, di cui più o meno si sa, cioè degli altri tre attentatori si sa qualcosa di più, cioè Zamboni, Lucetti e Zamboni. Invece di questa donna non si è mai saputo molto. Allora di nuovo c'è stato un mio elemento di curiosità di capire come mai chi era questo personaggio. L'enigma di Valerie Gibson è il fatto che lei rimane un personaggio molto fumoso, molto poco chiaro, sebbene ci siano molti elementi che invece emergono da questa indagine, perché ovviamente una donna che tenta di uccidere Mussolini e che arriva così vicina a ucciderlo, all'epoca creò non soltanto scalpore ma anche molta preoccupazione e fece avviare una delle indagini più lunghe e complesse del regime. Quindi così, attorno a questo personaggio si costruirono tutta una serie di possibili piste, sicuramente sono emerse nel corso di questa indagine tutta una serie di contatti, probabilmente aveva contatti con gli anarchici, probabilmente aveva contatti con i cattolici dissidenti, diciamo così, cioè quelli che si dissociavano dalla linea della Chiesa così vicina al regime in quegli anni, tutta una serie di possibilità. Però Valerie Gibson viene incapsulata sotto l'etichetta della pazzia e quindi la cosa viene insabbiata il più presto possibile, si evita un processo perché lei è dichiarata pazza e viene internata in un manicomio per il resto dei suoi anni, cioè muore nel 56 e passa 30 anni in manicomio. Questa storia dentro nelle tracce praticamente un po' come è accaduto per Valerie Solanas, no? Esatto, se ne perdono le tracce, lei viene sepolta lì, è un accordo tra il governo italiano e il governo inglese e la famiglia di Valerie Gibson si mette a tacere tutta la cosa. E allora questo documentario esplora un po' la figura di questa donna da più punti di vista e di come è stato costruito questo caso e di come spesso le donne vengono patologizzate e invece di essere considerata una pericolosa oppositrice del regime, il quale in effetti cos'era, si è fatto tutto questo e si è reinventato, cioè come spesso è l'isterica eccetera, e Valerie Gibson rappresenta molto bene la donna diversa, cioè l'elemento di diverso, di diversità nella propaganda del regime, di quello che dovevano essere le donne all'epoca e non solo all'epoca, e quindi una donna di eccessi, una donna che non si è sposata, che però non è vergine, che comunque non rientra nel suo schema, una donna non più giovane, non più bella, non madre, e quindi da espellere, un corpo estraneo da allontanare, come in effetti è stato. E così è un po' il paradigma di come si allontana, si isola, si allontana la persona. E poi comunque come si costruisce la cultura dei generi sostanzialmente, no? Esatto, mi è sembrato un esempio molto calzante. Nella mia idea originale dovevano esserci soltanto donne che parlavano di questa persona da più punti di vista, cioè del caso giuridico, del caso psichiatrico, dell'aspetto storico, dell'aspetto di propaganda, tutto. E più o meno nella versione che è distribuita dall'Istituto Luce in DVD è rimasta questa versione, ci sarà una versione televisiva che invece sarà notevolmente diversa. Allora, intanto ti volevamo chiedere, il DVD è uscito l'8, no? Da quello che noi abbiamo. Allora, dove si può reperire per poterlo acquistare? Perché intanto credo che molte donne possano, molte donne lesbiche, ma molte donne in generale possano essere interessate, perché è un'altra parte di storia che ci appartiene, ci pertiene proprio per questo discorso della costruzione culturale del soggetto, della soggettività viene della diversità, no? Sì, dunque della negatività del diverso, si può trovare nei negozi di DVD. Si può trovare in libreria, nelle librerie con la sezione del DVD, sì, quindi Rinascita Feltrinelli, immagino. Uh-huh. E poi si trova sul sito del Luce, si può comprare con e-commerce. Uh-huh. E invece stavi dicendo della riduzione televisiva? Ci sarà una versione televisiva, è prevista la messa in onda per La Storia Siamo Noi. dove però ci sarà l'aggiunta di storici, ci saranno... Quindi ci saranno delle variazioni ovviamente. Ci saranno delle variazioni. Io sono più vicina a questa versione, più vicina alla mia idea originaria. Comunque ci saranno queste due versioni. La data di messa in onda non la so. Comunque sarà un parte della storia siamo noi. Ma è importante questo aspetto, perché comunque per noi che facciamo, come abbiamo detto in tante occasioni, no? Facciamo tutto un lavoro di scavo, scavo archeologico, per ricercare quelle donne dimenticate, o meglio, cancellate dalla storia. Questo secondo noi è un passaggio importantissimo, perché rende giustizia ad una donna appunto che è stata manipolata, come succede piuttosto frequentemente, e manipolata ad uso e consumo del regime di allora, ma tanti regimi siamo là, sono sempre uguali, si assomigliano. E quindi l'ultima domanda che ti vogliamo fare è: come raggiungi le fonti? Anche se questa cosa tu ce l'hai già detta, per noi è tanto più importante, perché appunto curiamo nella radio, per Radio Onda Rossa e per la nostra trasmissione nel martedì femminista e lesbico autogestito, curiamo questa rubrica Donne Storia, dove appunto ricerchiamo fonti per riportare alla luce donne scomparse, cancellate, e sappiamo che, noi lo facciamo in maniera molto amatoriale, tu lo fai in maniera più puntuale, data la professione e gli strumenti tecnici che comunque hai, però è una curiosità, cioè reperire fonti è difficile, per te com'è? Allora, questo mi riporta a una cosa che non ho detto prima, e cioè che nel documentario ci sono anche delle ricostruzioni e si ascoltano le parole di Viola Gibson, perché ho trovato cioè le lettere, che è tutto nei vari archivi, archiviato e disponibile alla lettura, e ci sono delle pagine dei suoi diari, comunque poi la censura la teneva molto sotto controllo, ci sono tutte le lettere che lei ha scritto, anche biglietti, anche annotazioni. Lei è stata internata al manicomio di Roma, Santa Maria della Pietà, quindi anche lì c'è tutto un incartamento con i suoi scritti, eccetera. E quindi la fonte, diciamo, documentaria, anche quella, mi sembrava importante far parlare anche lei e non solo persone che parlano di lei. Il reperimento delle fonti è cruciale, però penso che non sia così irraggiungibile, e che anzi sia molto possibile e molto accessibile a tutti, nel senso che comunque le storie sono attorno a noi e le storie sono dappertutto. Io adesso mi sto occupando di immigrazione illegale per un altro progetto, e cioè le storie sono davanti a noi, basta guardare con gli occhiali giusti. Quindi se noi vogliamo reperire le storie di persone anziane che ci possono parlare dell'omosessualità o della loro esperienza di vita negli anni 50, per esempio, le storie sono ovunque, basta andare e parlare e raccogliere la testimonianza. Secondo me una delle urgenze assolute è quella di raccogliere sia gli scritti che le fotografie delle persone delle generazioni precedenti alla nostra, perché questi sono documenti di importanza fondamentale che in Italia vengono dispersi sistematicamente, sì. I parenti, i nipoti bruciano tutto, buttano via tutto, non capiscono l'importanza di alcune cose, e quindi in questo senso io penso che ci sia una forte mancanza nel mondo omosessuale e lesbico italiano, e un fortissimo ritardo nel capire l'importanza storica di questi documenti, e così io credo che noi paghiamo questa e pagheremo questa mancanza proprio con l'ignorare quello che è successo prima di noi. Io conosco un sacco di persone che avevano scatole di fotografie e che adesso sono morte e queste cose non esistono più, e invece erano dei tasselli importanti di un mosaico che noi non riusciremo a ricostruire, e ogni giorno ci riusciremo un po' meno. Certo. E quindi questo penso sia una cosa fondamentale. Poi le fonti sono dappertutto. Chi non ha mai conosciuto una signora di una certa età che è rimasta zitella, non si è sposata, e che però aveva un'amica che era una donna sposata che veniva però a trovarla, magari chiedere, no? Cioè, le storie sono lì. perché la gente non si fa avanti. E, io ho anche tentato a un certo punto di lanciare un progetto di storia orale con l'aiuto, non mi ricordo se era la provincia, la regione, e prometto sempre di farlo, cioè sarebbe molto bello anche poter fare in piccolo quello che la Fondazione Spielberg ha lanciato e ha fatto con molto successo anni fa. Non ci vuole molto, bastano 10 persone in gamba con 10 registratori. E raccogli? Assolutamente. E poi la memoria resta, cioè non è una cosa... Non so, quando io sono andata a San Domino delle Trenti, dove sono stati confinati una 70 di omosessuali durante il fascismo, la gente del luogo se le ricordava, cioè 70 omosessuali, di cui 35 in abiti femminili, in un video a San Domino negli anni 30, non è che proprio te lo dimentichi 2 settimane dopo. Certo. Cioè, la memoria orale, la memoria della gente resta, bisognerebbe appunto avere la possibilità di raccoglierla. Gabriella, noi ti ringraziamo tanto e niente, ci vediamo intanto alle 5 giornate, ci rivediamo Pasta d'Azzurro e noi invitiamo tutte a visionare questo nuovo lavoro. Violet, storia di Melina. Grazie. Grazie a voi. Bene, ringraziamo ancora Gabriella Romano per averci rilasciato questa intervista e adesso ascoltiamo un nuovo brano musicale, ascoltiamo la voce di Gabrielle con il brano Out of Reach e poi proseguiremo con il resto della nostra trasmissione. Knew the signs wasn't right. I was stupid for a while. Swept away by you, and now I feel like the fool. So confused, my heart's bruised. Was I ever loved by you? Out of reach, so far. I never had your heart. Out of reach, couldn't see. We were never meant to be. Catch myself from despair. I could drown if I say. Heart. ancora una piccolissima interruzione solo per ricordarvi che siete all'ascolto di Una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito, che va in onda a partire dalle ore 17 tutti i martedì a Radio Onda Rossa sugli 87 e 900 MHz. Potete ascoltarci collegandovi al nostro sito, che è www.clrbp.it, e cliccando sull'icona in diretta, oppure sul sito di Radio Onda Rossa, che vi ricordiamo è www.ondarossa.info. Avete diversi modi per entrare in contatto con noi, perché potete telefonare al numero di Radio Onda Rossa, che è lo 06 49 17 50, fino alla fine della nostra trasmissione. Oppure potete mandarci un SMS al numero a nostra disposizione, che è il 339 853 6270. Ve lo ripetiamo in modo che possiate memorizzarlo: 339 853 6270. Tenete conto che il nostro cellulare rimarrà attivo fino alla fine della nostra trasmissione. Vi ricordiamo anche che potete scriverci una mail al nostro indirizzo, che è contatti@clrbp.it, oppure telefonarci il giovedì sera al Centro Femminista Separatista presso la Casa Internazionale delle Donne, componendo questo numero 06 68 64 201. Come sempre, il mezzo che avete più immediato però per farci sentire che ci siete è quello dei trillini, che gradiamo sempre tantissimo. Basta fare il numero di Radio Onda Rossa, lo 06 49 17 50, lasciar squillare una volta e riagganciare. E adesso proseguiamo con la trasmissione. E riprendiamo, come dicevo prima, la trasmissione facendo il conto alla rovescia per le 5 giornate lesbiche. Tra 15 giorni infatti inizierà questo importante appuntamento. E allora, dopo aver parlato nelle trasmissioni precedenti delle tracce per le assemblee politiche, vi elenchiamo gli altri eventi, perché il calendario è decisamente molto ricco. Per la teoria segnaliamo tutta la serie di interventi che riguarderanno i Riparliamo. Si riparlerà di molti temi ancora oggi attuali da rivedere, da rileggere, da riconfrontarci sopra. Le relatrici saranno Francesca, Alessi, Pirri, Pomeranzi, Spinelli, e gli argomenti sono di tutto rispetto, perché si parlerà di queer, separatismo, omo e lesbofobia, patriarcato, femminismo e quant'altro. Poi, per tutto il periodo, sarà allestita una mostra di arti visive. Ci sarà il particolarissimo aperitivo poetico con le poete che leggeranno le poesie. Poi ci saranno proiezioni di corti e fiction a cura di Immaginaria. Ci sarà anche del teatro lesbico con Michaela Capucci, Mara Pieri, Carla Benvenuti ed Elena Rossi. Inoltre ci saranno anche concerti dal vivo, feste con DJ, poi è stato bandito un concorso di canzoni, di corti e racconti, chiaramente il tutto strettamente a tematica lesbica. Ci saranno anche dei workshop vari, ad esempio su poliamorfismo, discriminazione, scrittura erotica e conflitto. Ci saranno anche delle tavole rotonde, ad esempio con Beatriz, oppure quella sul film Viola di Mare, che tutte voi avrete avuto sicuramente modo di andare a vedere nelle sale cinematografiche, e alla tavola rotonda che verrà fatta su questo film Viola di Mare interverrà anche l'attrice Valeria Solarino, che ha interpretato proprio Viola nel film. Vi invitiamo tutte a venire alla Casa Internazionale delle Donne di Roma dal 2 al 6 giugno per assistere a questa miriade di cose organizzate. E, per i dettagli comunque potete sempre visitare il sito specifico creato per le 5 giornate, che è www.5giornatelesbiche.org. Allora, il tempo è veramente tiranno, la nostra trasmissione termina con l'ascolto del prossimo brano musicale e noi tutte vi diamo appuntamento alla settimana prossima con la replica di questa trasmissione. Ciao a tutte! Stone. There's nothing that can be turned around. Nobody wants to feel alone. Everybody wants to love someone. Out of the tree, go pick a plum. Why can't we all just get along? Boys in the girls' room. Girls in the men's room. You free your mind. Boys in the water, girls. They're getting harder. I'll free your mind and your androgyny. No sweeter a taste that you could find than food hanging ripe upon the vine. There's never been an oyster so divine. A river deep that never runs dry. What you need, what you need, what you need, what you need, what you need, what you need. Like treasure they twinkle in the sun. Get on board and have some fun. Take what you need to turn you on. Boys in the girls' room. Girls, girls in the men's room. You free your mind and your androgyny. Boys in the party. Get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. A cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold.